dai, andata via, se non va bene. Impegnato Edo. E dicono tutti così, ti metto l'assenza, Anzi, domani vieni accompagnato. Verrò accompagnato, cercherò qualcuno che mi accompagni. Che bel caldo c'è in giro, Natalia, eri a prendere un po' d'ambrosatura. No, negativo. Stamattina sono uscito, stasera Nisba. Domani devo uscire lo stesso a farmi il vaccino, la seconda dose. Domani, sabato, domani è sabato. Oh, speriamo che non mi dimentichi di andarci io, ma devo segnare con la figura. E quando devi andare? Il 4, domenica 4. Il giorno 1 devo andare io a accompagnare due persone che non hanno modo di andarci, se no le accompagno io. Li accompagnati già a fare il primo e quindi le accompagno a fare anche la seconda dose. E almeno tutto il pensiero. Una cosa è fatta, capito? Sì, infatti. Domani mi tolgo il pensiero. Sia io che la 50. Sì, io credo di essere l'ultimo che lo fa. Tutti gli altri sono a posto da noi. Speriamo che non succeda quello che sta succedendo in Gran Bretagna. Di quello ne possiamo riparlare a settembre, ottobre. Speriamo bene. Dobbiamo fare la fine dell'anno scorso. Perché se no veramente è un casotto. E infatti. Adesso anche qua vogliono togliere le mascherine, invece io avrei fatto con calma le cose, non troppo avventate. Sì, ma quel passo furioso, quell'ignorantone, veramente, io, cavolo, di gente così ignorante, di già sai chi, no? Quello apriamo tutto, tanto, dice apriamo tutto in sicurezza, ma senza mascherine, senza niente, senza vestiti, tra poco. Ma quello veramente ha preso un colpo di sole. Seduti in 6 allo stesso tavolo in un ristorante mi sembra una cosa un po' così a me. Troppa gente. Infatti, ha detto bene. Rifirrafa poi. Fortunatamente sembra che, non so adesso quale è fatto, se è fatto il Moderna, il Pfizer, quelli lì. Quei due hanno calcolato che sono i più efficaci anche contro questa rottura indiana. E io ho fatto il Pfizer, io e la mia 50, a tutti e due il Pfizer ci hanno fatto. E io lo stesso. Quindi siamo sistemati. Spero che siamo sistemati, contro questo virus solo. E poi vediamo un po' come si mette lungo il cammino, perché nessuno sa cosa succederà, purtroppo nessuno c'ha la palla di vetro. Giampa. Itte, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Ma non dai un controllo di radio, per favore? Chiacchiera un po' di più. Ehi, chiacchiera un po' di più, non è che ne abbiamo molta voglia con questo caldo di chiacchierare. Vedi un po' se sto arrivando bene del radio, sto usando il 60. Ciao Natali. Ciao Cla. Ottima per me, va benissimo. Per te Natali? Idem compattate. La mia modulazione del 60 o è troppo bassa, troppo com'è? E in genere tu rompi le orecchie, oggi va bene, là. Capito. È un po' più bassa del normale. Radio per chiacchierata in salotto di 2 ore. No. Sto andando a fare, dai. Ok, grazie di tutto. Sentiamo ragazzi, statemi bene. Segnale buono, Gianfranco. L'occhiometro è intorno ai 9:20. No, ho detto chiacchierata in salotto di 2 ore anche senza distensiva proprio la radio, capito? Non è una. Non è quelle bom bom bom bom bom. Proprio tranquilla, non è né troppo forte né troppo debole, è il giusto mix per farti una lunga chiacchierata. KK, va bene, dai, ci aggiorniamo più tardi se coincide che c'ho anche gente. Ciao, grazie, riprendi Natalino. Ciao Cla, buon proseguo, se coincide alle prossime. KK, dai, ci coincide più tardi, ciao ciao. Ok, ciao Claudio, buon caldo, alle prossime. Riprende Natale. È caldo, già c'è, io già c'ho il ventilatore acceso qua, per il sicuro. Guarda Gianfra, si sta così bene qua che tu non ne hai idea. Io sono dentro adesso, ma si sta bene anche fuori, eh. Non ce n'è problema. Già lo sai che la campagna c'è sempre più fresco rispetto alla città, quindi non mi posso lamentare. Ok? Ciao, a più tardi, ciao. Sì, infatti da me si sta bene su un versante, sull'altro verso Alghero dove ancora c'è il sole c'è ancora parecchio caldo, però sul versante diciamo di Sassari si può stare sotto l'ombrellone tranquillamente, cioè è fresco. Rispetto a ieri mi sembra che sia un pochino di meno comunque. Ok, Natale, tu sei in città e ti prendi il caldo, mi dispiace. Lo so, dove ero prima c'era qualche grado di meno. Capito, dove ero prima già si stava bene, dai. Beh, è così. La campagna, possono dire quello che vogliono, però... Una volta che la provi non la lasci più. Lo so, lo so. E poi qua non ho la comodità che avevo là, là c'avevo lo scaldabagno, che mi facevo la roba arrosta, c'avevo il supporto, no, per lo scaldabagno tagliato in orizzontale. Mamma aveva fatto questo barbecue che era di lusso. Me lo immagino. No, noi ce l'abbiamo proprio in formato barbecue, cioè quello metallico con griglia, tanto siamo in pochi, non è che è 4 persone. Non è che ce n'è avanza. Infatti, ma io avevo questa graticola che me l'aveva fatta il cognato mio fratello, sia il supporto che la graticola, che era fabbro lui, ma di lusso. Sì, ma la graticola è graticola, nata lì, non è quella che dà il sapore, è quella che dà la quantità più che altro, ma il sapore poi lo dai comprando roba buona, procurando più roba buona. Da quelle parti su dove già ce n'è, c'è molto bestiame, molto, c'è di tutto, il formaggio buono, il pane è ottimo lo stesso. Sì, infatti. Ah, io tutto arrosto mi facevo, già era poco buona la roba. Altro che qua. Gira, gira, me ne risalgo su. Certo ci sono meno grassi, perché quando lo fa arrosto il grasso viene sciolto e scende. Quando lo fa a casa, nella pentola, ti mangi grasso e tutto. E per di più grasso anche, se usi molto olio, grasso di quello cattivo, capito? Lo so. Ma potevo avere cosce di pollo. Arrosto me ne facevo. Cavolo, un'altra cosa, un altro sapore. Sì, arrosto, una spruzzata di limone e si accavallo. Da me dopo tanti anni c'era un bell'albero di limone, no? di quelli grandi. È rimasto per un anno circa all'asciutto, quest'anno è uscito di nuovo con dei limoni giganteschi, buoni. Ha rimesso frutto, eravamo disperati che stesse male quest'albero, invece questo è ripreso in una maniera forse era nel periodo che dicono che riposa, no, a volte lo fa. Adesso sono di nuovo usciti i limoni grandi, belli. Sì, lo fa, la pausa. Magari un anno non te ne mette nulla e dopo diventi roba di limoni tremendi, belli grossi. Infatti, abbiamo anche i fichi, che non posso mangiare, porca miseria, ma sono di quelli, abbiamo i verdi, anche quelli neri, ottimi veramente, mannaggia. E sono, abbiamo credo due alberi, non me lo ricordo neanche. Mamma mia, non me lo ricordare, poco mi piaceva, non mi posso mangiare. C'avevo anche i fichi d'India io, lì. Infatti, peccato, vedere ma non toccare. Mannaggia. Comunque, vabbè. Poi cosa c'è? E poi c'è tanta altra roba che si sta riprendendo. So che con questo tempo è difficile anche per le piante, caldo, freddo, freddo, caldo. E i cacchi avevo, e poco li piacevano a Luca, mi già li ha assaggiati quelli che c'erano in campagna, Luca del Monte, chiedigliela a vedere. E poi adesso, perlomeno per me sarebbe impossibile andare in ritornare in città, in condominio, e chi dorme? Qua, quando spegni tutto, giusto qualche ululato di qualche lupo puoi sentire, o qualche strillo della volpe che viene sempre a trovarci ogni notte, tutte queste cose, qualche gatto che s'azzuffa, cani in lontananza, qualche chilometro anche che abbaiano, però non sono rumori di condominio, di quella con le scarpe col tacco che si fa nel tamburo, di quelli che litigano, quelle cose di tutta roba dimenticata, meno male, per carità del cielo. Sì, in condominio, e non provi a rotirti qualcosa, se poco a poco sentono loro e ti denunciano. Sì, poi gli amministratori, sempre a pagare, no. Noi quando siamo venuti ci siamo accorti di un risparmio in termini condominiali veramente di parecchie centinaia di euro al mese. Quei soldi presi e utilizzati per farti i servizi tuoi, quanti ne volevi, come li volevi tu, non come li volevano gli altri. Quindi il riscaldamento quando lo vuoi te lo accendi, quando non lo vuoi lo lasci spento. Il fresco lo vuoi accendi oppure lo lasci spento, come ti pare a te, senza essere comandati da quello che vuole il riscaldamento d'estate e tutte queste belle cose. Infatti molta gente è fissata, si compra la casa in condominio, però non è mai tua, perché c'è la rata fissa del condominio e quindi non è mai tua, è come che paghi l'affitto. Sì, e poi è obbligatorio adesso, è obbligatorio l'assicurazione, è obbligatorio quello, è obbligatorio quell'altro, deve essere dopo 5 persone, credo che per legge ci voglia, deve essere nominato esterno, un bagno di sangue, no. Meglio niente. Noi siamo non felici di più di esserci sbarazzati di certe situazioni, perché poi sei anche ostaggio di quelli che li affittano, capito? Perché se sei fortunato c'è il tipo tranquillo che viene e fa gli affari suoi, se sei invece sfortunato te arriva il buzzurro delinquente che si boni a far muovere di notte, di giorno, a litigare, guarda, ne ho visto di tutti i colori. Sì, me lo posso immaginare, in condominio, ohia, non è possibile, invece quando sei lì, dove sei tu, quello che hai comprato è tuo, quando hai spento, capito, non sei alla mercé di altre persone. Infatti, è casa tua, è terreno tuo e ci fai quello che ti pare, nel rispetto anche degli altri, perché gli altri la pensano allo suo modo. sta tranquillo. Ciccio. L'unica cosa, diciamo, che di questi tempi è difficile godersela, ecco, perché sono sempre impegnato, devi fare questo, devi fare quell'altro, e quindi c'è molto, come dire, sono molto stressato al lavoro, però la sua situazione in condominio sarebbe anche peggio, perché avresti ancora più problemi, quindi ci accontentiamo anche così, dai. Ti puoi mettere anche tutte le antenne che vuoi, Natali, a destra, a sinistra, sul tetto, storte, dritte, funzionanti, non funzionanti, come vuoi. E in campagna ce ne, chissà quante ce n'è antenne piazzate, non avevo problemi di disturbo, potevo uscire con quanti watt volevo io. Tutta una, addirittura c'avevo una stanza, siccome vivevo da solo, che dove c'era il baracchino c'era anche una brandina, se volevo mi coricavo anche lì, non solo l'altro. Ma poi perché l'hai lasciato? Perché te ne sei andato? Perché abbiamo diverse vedute con certa altra gente, capito, che c'è lì. Per non stare bisticciando me ne sono andato. Quando è così va male. Se erano vicini soprattutto, no, qua sono tutti tranquilli, anzi certi neanche ci sono. Quando ci sono non li sento e quasi non li vedo. Quando li vedo a volte ci dicono, oh, mica sto andando giù magari dai genitori, perché uno che la polizia va dai genitori, sono a Cagliari, e ci chiede, mi date un'occhiata, se notate qualcosa mi telefonate, no, non si preoccupi, già ci siamo noi, capito? Quindi è tutta gente in gamba, tranquilla. E poi quasi tutti ci abitano fissi, capito? Non ce n'è gente, quindi sa le macchine, conosce le macchine che passano, che entrano, qua se viene qualcuno d'estraneo è subito fotografato e rilevato e anche controllato, perché sono forse dell'ordine, quindi la prima cosa che fanno una verifica sulle targhe. Figurati, ti sicuro di così? Da me quando passano non si fermano nemmeno, perché vedono che tutta questa installazione grande che c'è con le antenne, c'è anche la bandiera esposta, quindi pensano che sia una zona militare, sono i cartelli infatti fuori, divieto di avvicinamento, fotografare e rilevare, anche Google l'ha tolto, figurati, mi ha cancellato tutte le antenne. Addirittura. Sì, ma l'ho fatto anche dove abitavo prima, tutte con le installazioni che loro non lo sanno, se sono civili o militari, però per precauzione tendono a cancellarle per cioè, non so particolare, no? Che le toglie, perché non sanno se involontariamente poi stanno fotografando zone sensibili, capito? Per evitare denunce, ma anche le targhe, se guardi su Google non le vedi, no? Le offuscano proprio per non avere questi inconvenienti, ecco. Sì, infatti, perché loro non lo sanno se è zona militare, quindi no. Può essere un obiettivo sensibile, allora le cancellano per questo. Sì, meglio così. Infatti, Natalie, io ti devo salutare perché tra poco mi devo mettere in viaggio. E quindi ci sentiamo domani magari, se ci si. Ti saluto, Giulio è sempre attaccato alla televisione, non riusciamo proprio a staccarlo, neanche l'intervallo, ho detto almeno la pubblicità, entra, ma che? Bisogna fargli sparire le batterie. È solo perché poi non può usare neanche la radio, siamo fregati lo stesso. Sì, c'è il pro e contro. Vabbè, allora ti lascio libero al tuo da fare, Gianfra, ci sentiamo domani al limite, dai. rimango un po' in ascolto e poi anch'io dovrò fare qualcosa. Ci sentiamo alle soluzioni, grazie per la chiacchierata. Ti ho chiamato anche presto, stavolta ti ho chiamato esattamente, che erano credo di 5:15, 4:30, 5:15, una cosa del genere, non hai risposto, quindi stai punito. Va bene, sarò punito, forse ero addormentato, per quello che non ho sentito la chiamata. Vabbè, vedremo di organizzarci. Mettiti la suoneria di TMF, no? Così ti mando il tono di TMF e ti faccio suonare una campana tipo quella della scuola a svegliarti. E facciamo così. Vabbè Gianfranco, ci sentiamo domani, alle prossime. Ok, alle prossime, ciao, buona serata. Stazione 10? Avanti Roberto, buonasera. Ciao Carina, e beh, cosa combinate? E in ascolto sono. Cosa c'è la casa tua? No, sta bene, c'ho anche il ventilatore acceso qua. No, in questa stanza c'è caldo, perché prende una finestra, prende un po' di sole e calda un bel. Alla camera mia già c'ho l'aria condizionata, già si sta bene, diciamo, con l'aria condizionata accesa, se no per caldo. Ecco, pensavo che me ne compro un altro piccolino di quelli, però rifrescaturi, non condizionatore, se no ho fatto il macello qua. Non ho capito. Oiaia. Sono al computer qua che mi stavo rifacendo gli occhi, già ce ne sono pochi apparati belli. Se vai di là, già metto di tutti i tipi, ce ne sono un paio, mamma mia, sono dei ricevitori, ho visto il ricevitore quello bello che a me mi è piaciuto, ma costa, vabbè, costava, adesso ho usato, ma non so quanto lo trovi, costava di più di 10.000 euro, 11.000 euro, l'ICR 9.500 della ICOM, quello che non ha bestia, quello è una cosa, un sogno, quelli magari usati li trovi a 3-4.000 euro, non di meno. Lo so. È una bellissima radio, anche se adesso sono tutti col computer, attacchi, fai con queste chiavettine e riesci ad andare. Diciamo, non c'è divertimento, il bello è quando c'ha le manopole, i tasti, schiacci, ti regoli tu manualmente il potenziometro, ti metti il filtro col computer e ti fa tutto lui, largo, stretto, forte, lungo, corto, eccetera, eccetera, ti fa tutto il computer. Sì, infatti. A me però non piacciono quelli lì col computer, quelle chiavi, perché non riesco a sintonizzarmi, mi viene male a me. Lo so, perché l'usare la tastiera, il mouse, non è intuitivo come può essere una radio che c'ha il manopolone, giri, lì ci sono le freccette, beh, sulla freccetta schiacci, eccetera, eccetera. Non è funzionale, però come prestazioni il miglior ricevitore non arriva alle prestazioni di uno di questi nuovi, con questi sistemi elettronici di filtraggio, eccetera. E infatti. Nessuno si è sentito una tale. Ma parlavo con Gianfranco, poi dice che deve mettersi in viaggio, forse deve uscire, non lo so, e se n'è andato, però abbiamo fatto una bella chiacchierata. Sì, l'altro giorno c'era anche io, mi pare c'eri anche tu che abbiamo parlato un po' di in generale, molte volte anche con argomenti di reciproco interesse, dai, roba tecnica, molte volte è interessante fare conversazioni, dai, non sono le solite conversazioni di cosa hai mangiato, di cosa hai preso, eccetera, eccetera, no, ci vuole ogni tanto anche quello, però quando ci sono conversazioni di cose scientifiche e tecniche fa sempre piacere ascoltare e confrontarsi. Sì, infatti. Te credo, ma a me piacciono questi discorsi così, solo che non mi va, tanti ne vuoi di TMC60 e anche 50. E quanto? Minimo un MC70 non lo paghi, meno di 70 euro più spedizione, ma proprio di più scaccino, se no li vendono anche 80, 90, 100 euro. Ma è un buon prezzo 80 euro, perché nuovo costa un pacco di soldi. Sì, a parte che nuovo non so neanche se c'è ancora in produzione, magari qualche avanzo di magazzino, ma costa più di 200 euro nuovo, però secondo me degli apparati normali, senza salire troppo di coso, è il miglior microfono che ha fatto la Kenwood. C'è anche l'MC85 che a me piace, a qualcuno non piace, però l'altro l'MC50, l'MC90, l'MC60 secondo me è il numero uno come microfono. Sì, infatti, a me è sempre piaciuto quello. Ma poi c'è anche una bella estetica, nonostante che ci abbia 40 anni, forse ne avrà anche di più di 40 questo coso, 45 anni c'ha l'MC60. Sì, boh, non lo so, però sta di fatto che è uno dei migliori. Ma poi è indistruttibile, cioè tu lo tieni fermo 10 anni, lo usi e funziona sempre. Non ne ho mai sentito di gente che abbia avuto problemi con l'MC60, magari con la radio sì, ma l'MC60 è sempre stato abbastanza robusto, a meno che non ricordi a terra, non lo so, però anche i tasti, i PTT, non ne ho mai visto problemi di niente. La Spagna, Giasso che cadenare, Guadalmimi. Hai breco, hai copia, USL. Adelante Spagna, se escuchi l'Italia che ti risponde, avanti. Saluti l'Italia, aquí la España, Guadalajara, 50 kilómetros del centro de Madrid. Come tu ti vai? Sì, molto molto bene, te ascolto, compagnia. Ma il nome è Roberto, è compagnia di Roberto e del mio amico Natalino. Il tuo nome, per favore. QRA Oscar, QSL, Estación Pastelero. Sì, sì, molto molto forte il tuo segnale per te. Santiago nel 9 di Fiudeghe, la radio Super 5. Ti rilancio l'amico qua Natalino, avanti Natalino per Oscar. KQSL Oscar, 165, Mike November Oscar qua. Il tuo segnalito molto forte, papà. Tardes. QSL. Avete parlato in due, Natalino, ripeti. E chi ha parlato? Lui. QTV, un placer, hasta luego, ciao ciao. Ciao compagno, Natali, quando stava parlando tu ci sentiva lui sotto, sta arrivando a 9.15 qua, fortissimo. Che radio utilizzi compagno, per favore? Tu è entrato, ha fatto l'ingresso dal Leone ed è fuggito. Attenzione guarda la cara se copri la città di Sassari, QSL. Mi avete davvero una spagnola, Ghito? Tre volte, se penso di sì perché troppo bravo sarebbe stato a fare l'attore, vai Natale? Sì, forse a me non mi ha sentito perché sono basso basso. No, vedo che avrà sentito sicuramente, lui era, tu sei quasi 9.20 e lui era 9.15 anche di più, sotto l'ho sentito quando stavi parlando tu, qua è arrivato molto molto forte, a te quando ti è arrivato? Sì, forte, 9.10 qua. Cos'è questa specie di grillo che c'hai sotto, Natale? Un canarino che sta cantando. Ah, canarino, sembrava tipo un innesca, comunque ti ascolto benissimo. Bella radio, cosa stai utilizzando? Hai cambiato qualcosa? No, l'MB4 e il 3009 sto usando. Alla grande, Natale, pulita, perfetta, nessun disturbo, la radio ottima. Che ragazza. E anche lontano, adesso mi sono avvicinato, mi guarda adesso. No, ti ascolto perfetto, senza disturbi, è la radio chiara, come che sei a fianco a me al telefono, meglio del telefono, buro. Beh, ma guarda quanto è sensibile questo microfono, anche il canarino che è sopra il frigorifero alla gabbia, dimmi tu. No, se sei fatto pensavo pensavo fosse un innesco. No, fa tanti versi fa questo canarino. Guarda. Ma solo o c'ha la coppia? No, la femmina c'ha anche, ma la femmina non canta, fa ciu ciu. Ah così, pensavo canta solo tutti i canarini. No, il maschio solo canta. No, prendo nulla. Noi abbiamo avuto tanti tanti anni fa quando eravamo piccolini, canarini, cardellini, altri bisogni, ma lascia perdere, fate un sacco di mutinaggio, sporca, no, non mi piacciono. In campagna possono andare bene, ma non in casa. Sì, vabbè, io gli pulisco sempre la gabbia, li tengo puliti, capito? Sì, ma è un travaglio, andata lì, e alla fine dici, ma cosa ne hai? E infatti, ma convegno. Mia moglie li ha voluti, ce ne avevo un sacco, ne avevo e li ho tutti dati, no? E me ne era rimasta una coppia, me è muta e mi ha costretta a comprarne un'altra coppia. perché dice che lei rimaneva sola, questa e quest'altra. Oia, va rugano i muri. Ma non so cosa succede, che poi non ti puoi allontanare, per dire, se te ne vuoi stare 3-4 giorni fuori, lei sta preoccupato per dargli da mangiare, dargli da bere, eccetera. Per quello io ho detto, lascia di stare gli animali, a me i cani mi piacciono bene, però se abitassi in campagna, come mio fratello sì, ma sta in casa nulla, solo te lo devi portare appresso. E a quel punto dico, lascia stare, perché un cane a me io l'avrei voluto, a me mi sono... Gli ultimi che sono morti, ho detto, boh, finito. E infatti io non lo volevo neanche questo cane, la verità. Perché io già ce l'avevo un bel cane, un bel pastore tedesco avevo in campagna, ma in campagna però. Invece questo qui, oh, questo non sporca, non fa niente qua, assolutamente. Addirittura se vuole andare a fare la pipì ti avverte, capito? E allora noi lo facciamo scendere, fa le sue cose e torna su. Che cane è? Un meticcio, ma tu lo devi vedere, gli manca la parola dell'intelligenza che ha questo cane. Tutto. Quando mangia la papà sua, no? Io gli dico, mi papà se mangi tutto ti dà il premio. E io gli do un pezzo di wurstel per premio, no? A vederla se viene, lo vuole, quando si è mangiato tutto. Ma sono Emilio, io ho sempre avuto mio fratello cane di razza a lampadura che poi muoiono prima degli altri, però i migliori sono i bastardini, sono i cani più intelligenti, più affettuosi, riconoscenti, ma sono brutti per dire rispetto a un cane di razza meno curato, però hanno un'intelligenza e un affetto verso il cane, verso il proprietario. Nessun cane ce l'ha di razza, non sono delicati, poi perché il cane di razza vi sta attento, ma non so quanti ne sono morti a mio fratello, almeno 6 o 7. I bastardi solo sono durati e qualcuno è morto anche dei bastardi, però quelli di razza hanno sempre avuto problemi, qualche cosa la piglia sempre. E in effetti sono più resistenti i meticci. Questo è anche bello, oltre che è meticcio, bello, simpatico, ma è un bel cane veramente, è piccolino, di mezza taglia, ma tu lo devi vedere, è proprio di lusso. È intelligentissimo pure, capisce tutto, tutto. Io non posso parlare con mia moglie che lui sta sempre ascoltando. Non so, i cani sono così, i gatti non li busso più, se ne diri, proprio un animale che a me non piace, perché è un animale, magari è più pulito del cane per certi versi, a meno che non l'abitui il cane come l'hai abituato tu, però a me non piace perché il gatto è vigliacco, se trova qualcuno lì da meglio di quello di lei, tu se ne vai, se ne dimentica, il cane non ti tradirà mai, manco morto. Quello sì, il cane si affeziona a te, invece il gatto no, alla casa solo si affeziona, a te non si affeziona. È proprio così. Che adelante compagno. Buonas tardes mio hermano, buonas tardes a todos. Abbassa la radio che mi fai sotto, dove ti trovi? A casa so. E perché sei così forte? Come forte? Con lui ci sto parlando, ma perché non va bene? Troppo forte, mi stai entrando nelle orecchie rispetto a Natalino che è perfetto, tu mi sei un bel squillante. O hai sollevato troppo o sei troppo, ma vicino a te il microfono al palmo. E io c'ho la static. È un bel forte di radio, mi. O ti allontani un pochettino o abbassi il volume. Ho dovuto... Esatto, adesso guarda, va bene. Ho dovuto abbassare il volume perché mi è entrato nell'orecchio lo squillo. E di segnare come arriva questo apparecchio? Questo esce con 5 watt. Quasi 9,20, sì. Va bene, dai. Ogni tanto l'accendiamo, dai. Mi piace anche vederlo acceso. Questi già sono belli apparati. L'unica cosa è che sono solo... C'hanno solo la M. No, questo qui c'ha anche le bande laterali. C'ha M e tutte le bande laterali. L'FM no. Appunto dico, non ha l'FM, perché prima non c'era l'FM. Come il pace mio c'ha AM e SSB, però gli manca l'FM, se per dire devi fare qualche cosa di propagazione devi già andare a radio. Vabbè, radio qua ce n'è 1, 2, 3, 4, 5, se ce n'è di radio, a voglia. No, vabbè, sto dicendo, perché prima non esisteva l'FM nella banda cittadina, e da pochi anni che la stanno utilizzando, forse sarà una 15 anni, 20 anni, Cavala. Come mai state parlando di cani, Natalia? Io sento, se acceso sento che stavate parlando di cani. Cosa è successo? No, nulla, perché io ho il cagnolino, cioè è di mia moglie, non è manco mio il cane. Mia adesso, per esempio, mi era allontanato perché ha abbaiato e io sapevo che era mia moglie, perché abbaia in un modo diverso quando viene mia moglie. Io so già, senza che le suoni, da quando entra nel vicolo che è lei. Abbaia da canto intelligente e ciugano. Già lo so che è così, già lo sapevo. Guarda, io, a parte il cane, i pappagalli non sapevo che erano così intelligenti, un'intelligenza inaudita, allucinante, mi danno certe soddisfazioni, adesso li sto addestrando, mi vanno sul dito, sulle spalle, in testa, stanno cominciando già a fischiettare le canzoni. Allora, i pappagalli, scusa se interrompo, mia cognata e mio fratello, dai, hanno perso, ce l'avevano da un po' questo pappagallo, ma dice un'intelligenza, cantava la canzone di Coso, di Trinità, quella fischiata, gli ha segnato quella canzone, un cristiano questo animale, gli è volato, l'hanno perduto su internet, ne hanno preso da tutte le parti, ogni tanto lo chiama, mi ha messo le fotografie da tutte le parti, mi l'abbiamo visto qua, l'abbiamo visto di là, poi andava a Bigliano e se n'è scappato, ma non sa quante segnalazioni non sono riuscito a trovare, è fuggito 3 mesi, 4 mesi fa, dai. Che pappagallo era? È grande, mi non lo so, io non me ne intendo, un pappagallo sarà 40 centimetri di grandezza, non è piccolo, mezzo biazzardo. Magari no, 40 centimetri l'ara non può essere, quello grande grande non è quello che c'ha a Salvi, dai. Non lo so, io non me ne intendo di cosa, di pappagallo. C'è mio nipote, lui è cultore, fa parte dell'associazione, se tu vai a casa sua ti spaventi, ne avrà una cinquantina, ma di quelli enormi anche da, di cacchio saranno 60 centimetri, c'ha delle tante adibite a gabbie, tutta la casa sua, di Abai, di Trento, è tutto pieno di gabbie, e ce ne sono certi che non ti puoi neanche avvicinare, deve entrare solo lui dentro in queste gabbie, talmente sono pericolosi, ti puntano e ti beccano, infatti in certi punti neanche il padre e la madre ci possono entrare, lui è appassionato di questo e di cose, di qualche che si chiama, di api, lui fa l'apicoltore. Vabbè, ognuno ha le sue di passioni, là. No, io a me mi sono sempre piaciuti i pappagalli e fin quando ce l'ho fatta a comprarmeli. E me ne ho preso due, perché ne dovevo prendere uno, poi mi ha chiamato l'allevatore e mi ha detto, ascolti, io le devo dire una cosa. Qua io ho una coppia che è già formata, se ne do uno magari mi vuole l'altro, muore lì. Se li vuole tutti e due, li posso essere uno solo, non va bene. Ci siamo messi d'accordo e me li ho presi tutti e due. Gli animali in casa niente, tanto meno gli uccelli, perché gli uccelli vogliono seguiti, non ti puoi allontanare, non puoi fare nulla, cioè, ce l'aveva in casa mia madre, li avevamo tenuti, noi li avevamo presi quando andavi a rischiare i canarini, i cardellini, ne avevamo riempito tutta la casa, poi basta, era un travaglio, lo faceva lì, mi faceva anche pena mia madre, ogni giorno, prende i burendi, prende, c'è durato il canarino, mi pare, non ti vuole dire fesserie, 12-13 anni, forse anche di più. Vabbè, bisogna avere la passione, non puoi dire la baranoia, no, devi avere la passione, se la passione lo fai volentieri, capito? Io ogni giorno li libero un'ora e mentre li libero pulisco tutta la gabbia e poi loro vengono, ti salgono sopra, ti vengono sul dito, si fanno accarezzare, ma questo qui l'ho ottenuto dopo un po' di tempo perché prima erano un po' selvatici, ti beccavano, ti facevano, adesso piano piano acquistano un po' di fiducia, capito? Vai a cercare, dove si chiamano Luri Arcobaleno. Sì, vari li avrò visti. No, io sono andato alla mostra che facevano la promocamera perché c'era mio nipote che lui ha detto non fa di parte di questi gruppi qua, c'erano bellissimi animali, ma sinceramente è un travaglio già, tu mi dici una passione, ma se tu te ne vai in giro come vado io d'estate, cosa, come cacchio fai a tenerti in casa, devi stare preoccupato di questi animali, come i cani, a me piacciono un bel, però in casa non li puoi tenere, un cane è un travaglio, è un cristiano, non lo puoi abbandonare e te ne vai, o te lo porti appresso o non hai a qualcuno, però lasciarli buttarti come fanno molti, lascia perdere. No, io me lo porto appresso quando vado in giro. I pappagalli tu li devi dedicare circa un'oretta la mattina e poi loro stanno tranquilli, li rimetti in gabbia dopo che sono stati liberi e stanno tranquilli in gabbia, si mettono a parlare, a fare, a fischiettare, ecc. eccetera, loro con le scatole di nulla qui te le puoi uscire tranquillamente, certo non te le puoi andare in continente e lasciarli lì, e quello si sa che quando tu c'è l'animale devi prenderti anche le responsabilità, poi sono animali che vivono tanti anni. Sì, no, ma per quello ti sto dicendo, se uno ha le ferie, se mai vuole andare una settimana in crociera, guardi, ecco che c'è il pappagallo a casa, e chi te lo tiene? Sì, vabbè, io a me non è che mi piace tanto andare in crociera a viaggiare, non sono molto per il viaggio, mi piace più starmene qua. Però ti dico una cosa, che io adesso sono in pensione, cosa mi ne voto, cosa me ne frega di... acquisto tempo, diciamo, mi occupo il tempo libero, non è che me ne frega nulla di andare a lavorare e cose, non ho quel pensiero, capito? Tu stai ancora lavorando, quindi hai ragione, ma devi avere tempo per fare queste cose. Infatti, se tu dici, sei rientrato, sei avanti qua su 10, che vuole entrare? Chi sei? Ti sento malissimo, sei in mezzo al QRM, non ho capito, ma chi sei, Carlo? Non so se ti ascolta meglio Gianni, io ti ascolto Santiago 7, però c'ho il QRM quasi a 7 e non riesco a capire quello che dici. Guarda, io l'ascolto ma non è molto forte, la radio non è molto forte. Avanti, ho capito che sei franco, sbaglio, cappagatto di segnale, ti sento bene, Fra, però il problema è che la radio non è molto forte, dai. Dove sei? In Baramobile, cappa, com'è lì? Frequentato, poca gente, molta gente, com'è? Cappagatto, ho capito, dai. Sei lì per lavoro, ma pensavo che fossi andato lì a passeggiare, dai. Andavo, comunque ti ascolto, è interessante quello, che ti ascolto. Ho detto Carlo, invece c'è Franco, scusa Fra, ho capito Carlo. Purtroppo c'ho il QRM, sei Santiago, sì, quasi 7, dai, però c'ho il QRM altissimo, ti sento basso, cioè la radio un po' si capisce, ma a tratti, perché il QRM ti sovrasta. Non so se tu mi copi bene, Fra. Cappa, Fra, e a me come mi copi? Cappa, cappa. E con lui se sto uscendo, là, sono con lui. Quanto mi ha detto già, arrivo io. Cosa? Quanto arrivo di Santiago, non ho capito. Da me, 9:15. Io? Sì. Scusa, cappa. Con lo Smith del Ruiz, non lo so poi con gli altri Smith. Cappa, Fra, ti sei spostato. Comunque, ti sentiamo, l'interessante è quello, dai. A me mi stai ascoltando bene, quindi, anche di segnale. Cavagallo, dai, ci va bene allora. Anda bene, anda bene. Natalius, sì. Tattalino. Natalius. Natalina sta facendo cosa adesso? Hola. Sono rientrato già. Calagala. Va bene. Ma Franco è Alghero, cos'è adesso? Cosa? Alghero è Franco. Alghero, tu sta lavorando, non è che stia passeggiando, sta lavorando. Sì, no, l'ho chiamato Carlo, invece c'era Franco. Poco lo sentivo di radio, il segnale c'era, quasi 7, però la radio, c'ho troppo QRM, questa zona qua è micidiale QRM, i segnali devono superare almeno il 7 per essere comprensibili. Perché si porta quell'antenna autocostruita, adesso si mette quella lì, capito? Però la ricezione andava bene, dice che ascoltava forte, anche a te ti arrivava, quando arrivavi? Non lo so di segnale, ha detto che arrivavo forte di radio, poi il segnale non lo so. No, se dice che io arrivavo 9:15, tu magari arrivavi 9, considerando che magari sei in posizione meno favorevole. Beh, ha detto che il suo Smith era avaro. Ah, puro, cacchio. Vabbè, e me Natalino, rientrato? Sì, stavo facendo cosa, mi dovete scusare, non ho fatto tempo ad avvertirvi. Perché non mi levate e quindi sono andato a fare quello che dovevo fare e sono ritornato. Ok, dai. Già sono qui, non c'è problema. Anche io mi allontano un pochettino, dai, se magari ci sentiamo dopo, dai, tra un pochettino non fa ne cosa. Ciao Gianni, ciao Natalino e ciao Franco se mi ascolti ancora, e tutti gli eventuali qua amici sul canale 10. Io mi allontano un po' e ci risentiamo dopo, ciao. Ciao Roberto, le Prusse. Ciao Roberto, ci sentiamo, dai. Natalino, come ti sta arrivando con questo baracco? Al più stai arrivando, all'inizio del più, del 3009. Ah! Ma tu l'avevi regolato poi quello switcher. E allora, se no mi saresti arrivato molto più basso. Lo sai che è avaro questo? Lo so, di 10 dB. Io ormai lo so e do il segnale giusto, da picco. Se arrivi 9, sono 9 e 10. Lo so già la macchina. Sì, anche io me l'ho regolato, se no canta tutti i bassi li vedevo. Chi è che ti ha sovramodulato? Mia moglie mi ha sovramodulato, non lo sai che mi sovramodula. Da lontano è più sensibile pure questo micro. Se sentiva i canarini, Roberto, cantando. Li ho sentiti anche io l'altra lì, l'altro giorno, li ho sentiti anch'io. Che vagata, e già va bene, già va bene, già va bene. Perché positivi sono negativi, va 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, non è notto. Adesso mi hanno fatto abbassare la radio, adesso magari abbassa, no? No, è forte, cosa abbassa? Poco fa stavi rompendo le orecchie. Così è che vuole. No, che non si può modulare così. Sto scherzando. Poi a che ore sono? Le 7:15. Cazzo, allora. Andare da volare lì. Non la prenderà lì. Uia. Un travaglio. Lo so. Purtroppo quando uno ha quell'impegno deve andare e basta. E cosa vuoi fare? Kappa. Stava andando bene questo baracchino, non pensavo, aspetta, adesso guardo quanto sta uscendo. 5-6 watt sta uscendo, stava 6 watt. Ciao, salve. Ciao Gian. Natalia, aumentata la radio e che l'ho regolato appena. È di lusso, lasciala così. Perché non è quella da guerra, amico. È appena più bassa, però è di lusso. Così va bene. È radio 5, perfetta. Poi chiedilo anche a Gianni il controllo. Perché come si tuesci molto, ma molto più forte, e spacci le orecchie, come sta facendo Gianni poco fa. Gianni stava rompendo le orecchie poco fa. Vabbè dai, no, io sto usando il 60, però l'ho abbassato, dai, va bene, ok, l'importante è che ci sentiamo, poi no, noi dobbiamo sfacciare le orecchie a nessuno. Ciao Gianni, buonasera. Ciao Claudio, io sto andando, dai, che devo andare a prendere una lavoro, dai. Ci sentiamo, buona serata. Ciao Gianni, alle prossime. Ciao Gianni, buon tutto. Io adesso faccio quello che devo fare ogni sera e mangio. Tu rimani qua. E adesso sono un po' fuori con Filippo, poi già sono qua. Vabbè, allora rimango in ascolto, quando vuoi entrare non c'è problema. Già sono qua, capito? Via, va bene, dai. Allora la radio va bene così? E la Caragussichi è più salottiera, non è da battaglia. Ma l'amplificazione c'è però. E certo che c'è, però non è quella radio rimbombante, forte, cazzo, che ti spacca le orecchie, capito? Va bene, dai, ci sentiamo dopo, ciao. C'è qualcuno sul 10? Sono chitarre. Ciao Alto, buonasera. E buonasera anche a te, buonasera. Come, tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Ciao B, tutto a posto. Gaffa. Eccomi. Poi sono andato per l'ultima volta mio zio, che se n'è andato e via. Io. A chi è? Fratello Pierpa? Eia. E quando è morto? È morto ieri, è morto. È morto ieri. È quello che faceva vigile al fuoco, Mario. Ah, ho capito, ho capito. Lo conoscevo anche. Le condoglianze a Pierpaolo, lo conoscevo. Conoscevi? Sì, l'ho visto qualche volta in servizio. Qualche anno fa, perché era un bel po' di tempo in pensione. Sì, quando era in servizio ho detto, l'ho conosciuto. Dopo c'è un bel di niente. Vabbè. Tutto a posto tu? Come sta andando lì? Magnificamente bene, tutto a posto. Allora come vai più rotoli di scatoli? No, ma io non li avevo, non li ho mai avuto rotoli di scatoli io in condominio, la verità. Ho sempre fatto il mio dovere in tutto, massimo rispetto. Qua è un'altra cosa però, no, non c'è niente da fare, è un'altra gubba. Ora, ma sta cosa, sei in casa d'oglia, non ti proibisce niente nessuno. Fai lo che ti piazzi, fai. E se non è cana, l'indomani non fai nulla puro. Ma tanto anche lì a casa mia, non è che il condominio mi diceva quello che dovevo fare, assolutamente. È che risparmio un sacco di soldi, perché il condominio è abbastanza costoso. Perlomeno dove abitavo io. Qua condominio non ne ho e investo in altre cose, capito? Ma è sempre diverso, se attendi un fuoco lo fai e non devi pensare che ci sia quello che ti dica qualcosa, vuoi fare baldoria e va bene così, fai baldoria e nessuno ti dice niente. Condominio devi sempre rispettare le regole, sempre. Ehi, siamo arrivati in Luna, la Liga ha giocato l'Italia, la prima partita contro la Turchia. Casinetta abbiamo piazzato, capito? Alla fine a mezzanotte e mezza eravamo ancora fuori. Poi certe cose appunto si possono fare qua, lì non si potevano fare, ma io ti ripeto, non ho mai avuto problemi con nessuno. Per 35 anni io sono stato benissimo, non posso lamentarmi di niente, perché era il mio sogno avere una casa in campagna, capito, e finalmente ce l'ho fatta. E adesso, se Gesù Cristo mi lascia va bene, se no se ne goderà mia figlia. Ecco, pensa al positivo, pensa che te ne devi godere tu e tua moglie, e tua figlia pure. Certo che sì, però va bene, dai, comunque sono contentissimo. E io sono sempre impegnato, sono venuto un punto da ribappattacci, cazzo, mi sono messo a tagliare tutta l'erba dietro il muretto a petto nudo, che mi ha fatto vedo, cazzo. La maglietta di voce, no ti gozzi burro, da ragione. Cucinare da solo io già non ho problemi, è che mi ha appunto ribappattacci, ci ho venuto a bomboglioni. Cappa, troppo è così, ne è poco di animaletti. Vedete, è pulito lì, a chi gira la zecca, maledizione. No, tutto disinfestato, cambiato, mi ho chiamato la Mostop. La gente è venuto con la macchina, un fisso a bomba, manna, tutto disinfettato, tutto a posto. No, l'erba io non ne ho nel giardino, è sempre bassa. C'è da tagliare un po' dietro la recinzione, che stava crescendo il fieno secco. Noi abbiamo giocato tutto col mio vicino di casa, perché siamo confinanti. È una persona eccezionale, veramente. Quando Vruscio, aiù, vamos. Poi ci sediamo in veranda, teniamo una berretta, una sigaretta. E su chi andiamo? Male, sono contento. Tutta una sacuba in campagna. sei tranquillo, a Tagnaco le cane fatto, hai visto il giugreccio mio? No, non sto guardando niente, Arto, la verità, non sto guardando niente. Italia! Ah, l'Italia, l'Italia sta giocando bene, se continua così potrebbe avere dei buoni risultati, se continua così, se no... Guarda, quando ci sono dei tiratori che segnano da 20 metri, già abbiamo, cioè, già va bene, guarda, perché tiratori, cioè, che segnano così, è un demonio visto, che Tonia con la 20 metri che ha fatto, Gesù Cristo mio, non l'ha manco vista, e quello è un grandissimo vantaggio avere tiratori così, Locatelli, bravissimo. Locatelli, bisogna togliersi il cappello e dargli tanto di cazzo, Pollastro, chi c'ho Immobile, poi ne ha fatto pure uno lì, quasi dalla stessa distanza, quelli, cioè, sono gol che valgono, a giocare a quei ritmi non c'è portiere che lo tenghiano, a chi ti con una bizza non lo vede il pallone dove arriva. Si conferma infatti, no, bella squadra, adesso vediamo domenica contro il Galles che cosa fa, se vince anche contro il Galles io sono convinto che quest'anno l'Italia possa fare tantissimo. Perché deve essere anche un gruppo, loro l'hanno spiegato, allora, nell'intervista l'ha anche spiegato. Non è quello che è l'unico singolo che ti segna o due che ti segnano, deve essere un gruppo, deve essere, cazzo, quel Spinazzola corre come un matto, corre, deve essere un gruppo, deve essere, perché se tu ti affidi a due, massimo tre giocatori, non va bene, deve essere il gruppo, deve fare la parte, sennò è sempre la stessa storia. Si conferma, è proprio così, Anto, è proprio così, vabbè, adesso vediamo cosa fa, dai, piano piano, KK, Anto, io vado a pappare, dai, ci sentiamo dopo se ci sei, ok? KK, dai, ci sentiamo. Dai, saluto a tutti, ci sentiamo dopo, ciao. K. Hello. Lala.